Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Nel mondo dei consumi si moltiplicano le iniziative per dire grazie a medici, infermieri e operatori sanitari. Vi abbiamo già raccontato le 1000 vacanze in barca di Sales Square. Per queste 2 settimane McDonald's offrirà loro la colazione in tutta Italia. Questa sera vi raccontiamo le attività outdoor messe a disposizione dalla piattaforma Freedom. Vi raccontiamo anche un'importante innovazione made in Italy nel settore tessile, il primo tessuto antivirus e antibatterico. Focus sui trend dedicato infine alla difficile ripartenza di locali e ristoranti. Siamo andati a caccia delle soluzioni più creative e innovative che fanno scuola nel mondo. La vita è la più bella delle avventure, ma solo l'avventuriero lo scopre. Gilbert Kit Chesterton. Dal trekking all'arrampicata, passando per il rafting, il tour in mongolfiera oppure in bicicletta o ancora l'escursione a cavallo, sono più di 100 le attività outdoor disponibili sulla piattaforma Freedom, che con l'iniziativa Real Heroes ha deciso di ringraziare medici, infermieri e operatori sanitari regalando loro 1000 avventure in tutta Italia. Freedom con la F finale.it, l'indirizzo dove trovate tutte le indicazioni. Noi intanto ne abbiamo parlato con uno dei fondatori, Michele Mezzanzanica. Freedom è un marketplace per attività outdoor, cioè una piattaforma online che consente di trovare e prenotare le migliori attività sportive e ricreative all'aperto, come ad esempio rafting, trekking, voli in mongolfiera, escursioni a cavallo, corsi di arrampicata. Siamo una realtà molto giovane, ma cresciamo in fretta. Siamo partiti a luglio 2019 con circa una 60 di attività nel nord Italia, ma ad oggi ne contiamo già oltre 500 in 11 regioni. E voi in questo periodo avete lanciato questa iniziativa Real Heroes per ringraziare chi si è impegnato e tuttora impegnato in prima linea nell'emergenza coronavirus. Di cosa si tratta? Esatto, Real Heroes è proprio un'iniziativa benefica che abbiamo lanciato in questi giorni in collaborazione con i nostri partner per dire grazie a medici, infermieri e operatori sociosanitari che hanno prestato servizio durante l'emergenza Covid-19. E l'idea era di dare il nostro contributo in questa situazione che ha coinvolto tutti molto da vicino a modo nostro, e quindi abbiamo deciso di mettere a disposizione oltre 1000 biglietti per svolgere le attività presenti sul nostro sito a titolo completamente gratuito. Fino al 25 giugno tutti i medici, infermieri e OSS potranno scegliere una delle attività messe a disposizione e richiedere un voucher valido 12 mesi che gli consentirà di svolgerla a titolo gratuito, appunto. E l'iniziativa coinvolge oltre 120 attività in tutta Italia per un totale di 1000 biglietti offerti da 70 operatori diversi, e ci tengo a sottolineare che siamo molto orgogliosi della risposta degli operatori, i nostri partner, che penso dimostri grande spirito di solidarietà e voglia di ripartire. Immagino che tutte le attività outdoor durante il lockdown si siano bloccate, ovviamente per ragioni evidenti. Come stanno ripartendo, con quali misure? Beh, ovviamente tutti gli operatori si stanno attrezzando per ripartire rispettando le disposizioni e quindi svolgere le attività in completa sicurezza, a volte anche in modo molto ingegnoso. Un bel esempio è uno dei nostri partner che sta sostituendo i pulmini per i transfer con delle biciclette elettriche. Altri esempi sono banalmente i gommoni dove si fa rafting, dove probabilmente verrà ridotta la capienza, quindi il numero di persone per gommone. Comunque in generale siamo ottimisti e pensiamo che ci sarà una ripartenza decisa del mercato per diversi motivi. Prima di tutto, come dice la parola stessa, queste attività outdoor sono attività che si svolgono all'aperto, e quindi spesso, a parte casi eccezionali, permettono di rispettare le norme di sicurezza, in particolare il distanziamento sociale. E inoltre queste attività di solito si distaccano dal concetto di turismo di massa perché si svolgono in piccoli gruppi e in ambienti naturali molto ricercati. Cambiamo argomento, parliamo di innovazione nel tessile, innovazione made in Italy con il primo tessuto antivirus e antibatterico. È il tessuto Viroformula firmato Albini Group, ce lo siamo fatti raccontare dal presidente Stefano Albini. È un tessuto molto importante che nasce dal nostro hub di innovazione Albini Next che abbiamo creato l'anno scorso. Avevamo questa collaborazione con un gruppo svizzero molto avanzato di prodotti chimici per l'industria tessile. Abbiamo insieme a loro analizzato questo prodotto, l'abbiamo provato sui nostri tessuti. Dopo i test fatti abbiamo effettivamente portato sul mercato, stiamo portando sul mercato un tessuto che ha delle caratteristiche antivirali, antibatteriche importanti. Quindi in una situazione di emergenza quale questa, quello che vogliamo portare ai nostri consumatori è la protezione contro questi batteri e virus, in modo che qualunque spostamento, qualunque possibilità di passare i virus che si depositano sui tessuti possa essere eliminata, e questo penso possa dare anche al consumatore psicologicamente un conforto e una minore preoccupazione. Questo trattamento che riceve il tessuto ne cambia in qualche modo le caratteristiche o le lascia invariate? No, da tutte le prove che abbiamo fatto, il tessuto esternamente è esattamente uguale, ha la possibilità di essere lavato almeno per 30 lavaggi, mantiene le caratteristiche, quindi può essere usato in qualunque ambito, ma non esternamente. Ha le stesse caratteristiche, non ha nessun effetto contrario o non positivo per quanto riguarda la pelle. Quindi può essere utilizzato per tutti i tipi di capi? Sì, noi siamo specialisti nell'ambito delle tessuti per camicie, ma proponiamo anche una collezione per abbigliamento, quindi giacche e pantaloni, indistintamente può essere usato su qualsiasi tipo. Noi adesso lo stiamo testando, lo abbiamo già testato su vari tipi, lo testeremo anche su tessuti più tecnici o misti lana, misti cotone, ma da tutto quello che abbiamo visto può essere usato indistintamente su qualsiasi tipo di tessuto. La vostra esperienza lo testimonia, voi anche in un periodo come questo non avete abbandonato l'innovazione e quindi la ricerca, la spinta propulsiva a innovare. Nel mondo della moda in questo momento di crisi si discutono varie trasformazioni, in qualche modo si pensa ad un rallentamento, ad una riorganizzazione in base alla stagionalità. Ecco, sono discussioni, sono cambiamenti questi che influiranno anche sul vostro mondo? Ma noi pensiamo di sì, siamo soprattutto adesso in costante collegamento e colloquio con i nostri clienti e recepiamo effettivamente questa necessità di un rallentamento, di tornare forse ad una collezione più classica, meno connotata da eccessi come abbiamo visto in questi ultimi anni, probabilmente speriamo verso anche una qualità più importante, più alta, e quindi che possa favorire i tessuti che facciamo noi, che si fanno in Europa, e proprio un consumo più consapevole, un consumo anche da parte dei giovani più verso la sostenibilità, verso criteri che possano appunto favorire l'ambiente, quello ce lo auguriamo, e devo dire, ripeto, dai contatti che abbiamo con i clienti sembra che questa tendenza possa avvenire. Poi il problema un po' di adesso è anche l'incertezza della situazione economica che stiamo passando, è difficile prevedere quello che avverrà in futuro. Però noi pensiamo che ci possa essere una semplificazione nelle collezioni, e noi adesso a prossimo luglio usciremo una nuova collezione, abbiamo ridotto quello che sarà la proposta proprio per andare incontro a questa, anche dal punto di vista dei costi, semplificazione, e penso che i clienti la recepiranno. Dalle mini serre lungo i canali di Amsterdam al pisciolino igienizzante nelle bento box giapponesi. Restate con noi perché nella seconda parte parleremo delle soluzioni creative anti-coronavirus per la ristorazione e poi ancora di moda e di smart dressing tra pochissimo. Essere e avere. Cavolo, ho visto un ristorante. Non ne avevo mai visto uno così in tutta la mia vita. Hanno questo sistema completamente automatizzato, si chiama Sistema Espresso. Un nome perfetto perché diamine si è veloce. Ti giuro, sembra una cosa partorita dalla mente di Henry Ford, per capirci. È rivoluzionaria? È rivoluzionaria. È esattamente questo, rivoluzionaria. Focus sui trend. È stata una ripartenza molto complicata, quella dei pubblici esercizi. La metà ha riaperto subito il 18 maggio scorso, un terzo circa qualche giorno dopo, il 10%, pensate, riaprirà a giugno, mentre il 5% ha rinunciato del tutto a riaprire. Per oltre il 70% dei locali che hanno riaperto, secondo i dati FIPE, gli incassi si sono ridotti di circa il 70%. Il settore è a caccia di idee, di soluzioni innovative che rendano questa situazione più gestibile e soprattutto sostenibile per le imprese. Tra gli altri, il Comune di Milano ha chiesto la collaborazione di creativi e designer. Con Sabrina Donzelli di Future Concept Lab abbiamo mappato i casi che fanno scuola nel mondo. Ciao Sabrina, ben trovata. Ben trovata a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Per iniziare, ci porti ad Amsterdam. Sì, vi porto ad Amsterdam lungo un canale dove un centro culturale artistico, si chiama Mediamatic, ha proposto un'idea e l'ha chiamata serre separate, delle vere e proprie serre a forma di casetta che, poste all'esterno dell'edificio lungo il canale, costituiscono dei nuclei molto intimi, ma pubblici, visibili, dove le persone, una coppia, massimo tre persone della stessa famiglia, possono fermarsi a cenare. Dal termine chambre séparée, che in francese indica sale da pranzo private, hanno, come dire, estratto il nome del progetto, Serre Séparée. Sono luoghi allo stesso tempo intimi e pubblici, separati e visibili. Un menù vegetariano di quattro portate viene portato da camerieri che indossano visiere, dispositivi di protezione individuale, e i piatti vengono serviti all'estremità di lunghe assi di legno che consentono di consegnare il cibo al tavolo senza entrare nelle singole serre. È un'idea piacevole, curiosa, utile in questo distanziamento sociale. Una soluzione creativa per non rendere respingenti, diciamo così, anche le necessarie misure di sicurezza. Vita difficile anche per i ristoranti stellati. Molti in Italia si sono attivati con il food delivery anche durante il lockdown. Restiamo in Nord Europa, Sabrina, con uno dei ristoranti più famosi al mondo. Parliamo di Noma, il famoso ristorante di Copenaghen di René Redzepi, più volte riconosciuto come miglior ristorante al mondo, che si ripropone con una piccola rivoluzione. Si ripropone, anche se in veste temporanea, come burger bar. Giovedì 21 maggio, all'ora di pranzo, ha invitato le persone, senza alcuna prenotazione, ad accomodarsi nei loro giardini con vista sul lago e offrendo del buon vino, due soli hamburger in menù, un cheeseburger e un hamburger vegetariano, patatine, pane cotto al forno, pochi elementi di grande qualità per ospitare un pubblico più diffuso, più ampio, e quindi l'idea di questa riapertura, di questa nuova partenza è su due motivi principali. Da un lato lo chef voleva in qualche modo offrire un festeggiamento pubblico, no? Di una riapertura, accogliendo veramente tutti con prodotti sempre di grande qualità ma accessibili. Secondo motivo è rimettere in moto quegli ingranaggi che soltanto ben rodati possono far tornare questo team di circa 80 persone in cucina ai livelli di prima. Per il terzo caso torniamo in Italia con un'app. Le app, lo sappiamo, sono le grandi alleate di questa fase di ripartenza per molte attività. Raccontaci. L'app in questione si chiama Soon It. Soon, veloce, presto, e It come mangiare, quindi è una startup dedicata al make it easy, implementata da una piattaforma per garantire sicurezza e efficienza sia ai ristoratori che ai loro clienti. Fronte ristoratore è una piattaforma in cloud che può essere monitorata da un unico pannello sulle funzioni che riguardano la gestione della sala, della cucina, la parte, diciamo, dell'amministrazione, e fronte cliente con un'app che ovviamente permette di ridurre al minimo il contatto non solo con gli altri clienti ma anche con il personale del locale, perché dal proprio smartphone il cliente potrà evitare la coda all'ingresso, accomodarsi al tavolo prenotato, consultare un menu multilingue fino a 5 lingue e le foto del piatto, ordinare, pagare, e poi una chat diretta con il personale interno del ristorante. Quindi per tutte le pause pranzo, per tutte le cene fuori, c'è la possibilità veramente di interagire, e ogni funzione ha un approfondimento. Chiudiamo con un caso che ci arriva dal Giappone, un'iniziativa solidale che ha unito due aziende in un progetto al servizio della ristorazione. Di cosa si tratta? Una partnership, direi, molto creativa, socialmente utile e commercialmente intelligente, perché come sappiamo molte attività imprenditoriali durante la pandemia hanno dovuto subire un drastico crollo della domanda nei loro servizi, uno stop alla produzione, e alcune hanno saputo riconvertirsi, altre hanno fatto fatica. Due aziende giapponesi si sono unite per questo nuovo prodotto, Safe and Fish, dei piccoli pesciolini di plastica, quei contenitori che usualmente vengono consegnati per la soia nei pacchettini, nei kit individuali, sono stati riconvertiti per distribuire invece del gel disinfettante. Le due aziende in questione sono la Clear Electron, un produttore di agenti antibatterici naturali, che ha visto un aumento esponenziale della domanda di disinfettanti per le mani, ma non aveva in mezzi per la distribuzione sufficiente. L'altra azienda, Oishiga, che produce e riempie i contenitori di salsa di soia a forma di pesce, ma aveva subito un crollo di domanda. Quindi hanno unito le forze, hanno unito le potenzialità, e questi pesciolini ripieni di disinfettante hanno potuto essere distribuiti veramente in modo diffuso. Hanno soltanto cambiato il tappo, non più rosso ma blu, che richiama un po' l'immagine di pulito, di fresco. È stata un'idea geniale, piccola, semplice, questa volta non per il mondo della ristorazione, ma a partire dal mondo della ristorazione per rispondere ad altre esigenze. Perché poi sono stati distribuiti gratuitamente appunto ai ristoratori o alle società di delivery, così da servire il cliente. È stata un'idea utile da più punti di vista, affrontando gli aspetti, diciamo, di sicurezza, di salute, di mantenimento di un'impresa e anche di diffusione di buone pratiche. Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima. Un saluto, ciao. Il consumautore. È il momento della riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato, Francesco. Buonasera Maria Luisa. La moda ripensa a se stessa. Questa sera dedichiamo la nostra riflessione alla moda. Da più parti sono arrivati gli inviti sia per uno stile diverso che per un modello di business diverso. L'invito è quello a rallentare sia in termini stilistici che di organizzazione. Ci sono state importanti prese di posizione, una su tutti è stato anche il primo Giorgio Armani. Voi da questo punto di vista, Francesco, che tipo di analisi state facendo? Ma noi come sempre partiamo dai nostri consumautori e consumautrici, magari in questo caso ancora di più. È chiaro che la costruzione della nostra immagine, no? Cioè l'idea comunque di presentarsi è profondamente cambiato, perché incontriamo meno persone, abbiamo meno occasioni formali soprattutto, no? Gli eventi, le feste, i momenti in cui ci si incontra, e quindi inevitabilmente la nostra percezione anche di come si può essere belli o desiderabili è cambiata. E allora su questo la prima cosa è stato definito lo smart dressing, no? Cioè quindi un modo di vestire che è sicuramente per lo smart working, perché se rimani a casa per 10 ore per riunioni e in realtà ti si vede solo la parte, diciamo, dalla cintola in su, inevitabilmente fai delle scelte di abbigliamento diverse, ma soprattutto uno smart nel senso della comodità, del sentirsi bene, e quindi non necessariamente la sciatteria o il casual classico, ma qualcosa di nuovo, di diverso. Ci sono alcuni stilisti giovani che stanno proprio lavorando su questa ipotesi. Facciamo delle scelte di stile o di abbigliamento che sono ancora più uniche di prima, no? Facciamo delle scelte che poi magari durano anche tutto il giorno, non abbiamo più bisogno di cambiarci, non abbiamo più il bisogno appunto di rappresentarci, no? In modo teatrale, cambiando sulla base delle occasioni, ma piuttosto andiamo alla ricerca di qualcosa che ci piace davvero, quindi un elemento di autenticità che sicuramente emerge, come anche tante altre cose, no? In questa fase che abbiamo spesso commentato. Cerchiamo alla fine di prendere decisioni che ci corrispondono di più rispetto al passato. In questa rivoluzione, in questa trasformazione, l'innovazione verso la sostenibilità, lo sentivamo anche nella prima parte, ha ancora spazio, trova risorse per andare avanti? Ancora di più di prima, perché oggi questa esigenza di una sostenibilità che sia protettiva arriva anche proprio al mondo tessile, al mondo della sperimentazione, anche dei filati. Già prima si lavorava sui tessuti antiallergici o protettivi e salutisti, e oggi con l'arrivo del virus arriviamo a forme ancora più sofisticate che possano rassicurare le persone, ma nello stesso tempo avere anche una qualità sensoriale che alla fine le persone desiderano. Ecco, non immaginiamoci un mondo pauperista di una sostenibilità triste, ma anche nella moda una sostenibilità bella, con una nuova estetica e una nuova ricerca. Grazie a Francesco Morace, finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.